Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1861, Silvio Spaventa, il nemico della Camorra, lascia Napoli. Da oltre un anno l'entusiasmo che aveva accompagnato l'arrivo a Napoli di Garibaldi ha lasciato il posto a pianti e ingiustizie di ogni genere. La città e il sud vengono trattati come un corpo estraneo nel nuovo regno. Torino non riesce a gestire la situazione. Agli errori si aggiungono abusi e crimini di piemontesi e meridionali. E così a luglio è arrivato il nuovo luogotenente del re. Al posto del conte Ponza di San Martino, che pure si era mostrato intelligente ed equilibrato, tocca a un duro, il generale Enrico Cialdini. Obiettivo: stroncare la resistenza e i cosiddetti briganti. Si è presentato con un proclama e la mano pesante. A Somma Vesuviana il maggiore Franchini ha fucilato 6 persone, tutte poi risultate innocenti. Caricate! Puntate! Fuoco! Intanto però il primo risultato ottenuto da Cialdini è la partenza di un uomo che si era guadagnato il rispetto dell'intera città, nemici compresi. Giovedì 18 luglio il giurista Silvio Spaventa, liberale abruzzese, si è dimesso da prefetto di polizia. Affrontava da mesi le minacce della Camorra. Appena insediato nel gennaio aveva introdotto le guardie di pubblica sicurezza, licenziando le guardie cittadine create dal suo predecessore Don Liborio Romano per riscuotere le gabelle e mantenere l'ordine, perché infiltrate dalla Camorra. Chi parla è Salvatore De Crescenzo, capintesta della bella società riformata. Stamattina ho avuto un colloquio con Don Liborio Romano. O prefetto e polizia. O prefetto e polizia. Ecco te rimasto parte, non mi sbirro. Per la sua decisione, Spaventa è stato subito preso di mira. Prima le ingiurie nelle strade di Napoli, poi minacce e intimidazioni. Il 19 gennaio 1861 è un primo tumulto. Spaventa non si fa intimorire. Il 29 aprile altri provvedimenti provocano una nuova rivolta. Una folla eccitata chiede le sue dimissioni, lo assedia in casa. Lui si rifugia da Onorato Croce, un amico, la cui abitazione viene devastata. Un assalitore si affaccia da una finestra con un coltello insanguinato e grida: «Ha già ucciso Silvio Spaventa!». Spaventa però è salvo e reagisce. Si fa vedere al Teatro San Carlo, in un caffè frequentato da camorristi, passeggia per via Toledo. I nemici cominciano a rispettarlo. Ora però si è dimesso. Si dice sia in contrasto con Cialdini, che intende avvalersi anche di ex garibaldini. Spaventa li ritiene collusi con la malavita. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.